Era una notte buia in Bolognina, ma sentivo quel suono e mi piaceva. La stagione sonora del Binario 69, all'insegna della partecipazione e dell'accessibilità. Binario 69, via dei Carracci 69 7D a Bologna. Ingresso riservato ai tesserati AICS. Info sui nostri social. Vorresti seguire Radio Città Fujiko più spesso, ma per il lavoro e gli impegni hai poco tempo? Iscriviti alla newsletter settimanale Fujiko Weekly e ogni venerdì riceverai gratuitamente una selezione del meglio della produzione di Radio Città Fujiko. Se vuoi ricevere la newsletter per mail, inserisci il tuo indirizzo nell'apposita sezione sul sito www.radiocittafujiko.it. Se invece preferisci riceverla sullo smartphone, iscriviti al canale WhatsApp o al canale Telegram della tua radiolina del cuore. Trovi tutto sempre su www.radiocittafujiko.it. Vuoi imparare a usare la voce come uno speaker radiofonico? Intendo molto meglio della voce che stai sentendo? Allora iscriviti a Voice on Air, il corso di speakeraggio radiofonico di Radio Città Fujiko, in collaborazione con Rima Cheride e Teatro dei Dispersi. Imparerai le principali tecniche di respirazione, vocalità e lettura e potrai realizzare un prodotto radiofonico. Chiedi informazioni o iscriviti scrivendo a marketing@radiocittafujiko.it o telefonando allo 051 346458. Ehi tesoro, cosa facciamo questo mercoledì sera? Su sì, bowling? Andiamo a fare balotte in centro? E se andassimo a spaccarci di musica classica? No, la musica classica è per vecchi. Che dici? Musica classica, vinelli a chilometro zero, birrette artigianali e la cucina tematica della mitica Gigi Combat. Figata pazzesca! Sì, andiamo! Classica da mercato, tutti mercoledì alle ore 20, via Tartini 3, Mercato Sonato. Niente di più punk! Caricamento di Panta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti. Velocità smodata! Via! E siamo tornati. Tutti e due che siamo tre. Siamo talmente tornati, talmente esatto, tanto che ci siamo moltiplicati. Fortuna che ci sono io, che sono una moltitudine, diceva Andrea Pazienza. Quindi figurati. Attenzione con le citazioni colte. Oppure io sono legione, quello lo diceva Lucifero, ma questa è un'altra cosa. O Anonymous. Lì sera noi siamo legione. Benissimo, ladies and gentlemen, questa è Panta 80. Siamo tornati con la piccola sorella Imolese in ascolto in studio. Salve. Lei mima, è lei, un altro. No, lei, essendo ascoltatrice, continua ad ascoltare. Ad ascoltare, esatto, esattamente. E mima il suo senso e consenso. Molto bene, e soprattutto privo di senso come questa trasmissione. Assolutamente, che è quello il bello alla fine, fondamentalmente. Esatto, no, il bello sei tu, casomai io sono quello simpatico, ma va bene così. Panta 80, 103.1 in FM, Radio Città Fujiko, www.radiocittafujiko.it. E niente, noi siamo tornati. Io la scorsa settimana mi sono preso così una pausetta perché mi piace fare le cose di moda mainstream. Ma sì. E siamo al terzo Covid, quindi con gioia. Alla fine il proverbio dice: non c'è due senza tre. Il problema è che a casa mia si dice poi anche il quarto viene da sé, e quindi perché non se lo fila nessuno, allora, quindi è costretto all'autoerotismo. Ma va bene così. Non, del resto, insomma, quanta poesia alle 21.05, signori e signori. Ah, qualcuno ha risettato l'orologio, io non lo tocco più, perché altrimenti vengo ogni volta che lo tocco finisce sul fuso orario di Urano, probabilmente. E quindi ok, mi dicono che però è sia lunedì che mercoledì, lo so, ma perché qui il tempo è flessibile come un giunco. Mosso dal vento, che non fanno le macchine che vanno a 30 all'ora, perché neanche spostano l'aria. No, perché io non sono polemico per niente. No. Quindi, assolutamente. Va bene così. No, ma in realtà va bene. Perché. Va bene. ti dà più tempo, ti dà più tempo per pensare, per pensare, per ascoltare la musica. È così, vero. Così. E oggi, tra l'altro, a tal proposito, c'è troppo poco tempo per troppa musica. Questo è vero. Per esatto. Troppa musica. Ma peraltro, siccome noi questa sera racconteremo in una formula assolutamente geniale, pensata da Andrea, che io, da buon vecchio giocatore di ruolo, da tavolo, d'azzardo, mi piace questa formula che ha adottato. Questa sera parliamo di tempo. Parliamo di tempo, esattamente. Di tempo che passa inesorabile. Passa inesorabile anche perché parliamo oggi, insomma, e anche la playlist è dedicata a quegli album che compiono nel 2024 40 anni. E 40 anni è esattamente il tempo che ci metto io coi 30 all'ora andare dalla radio a casa, quindi ho tempo per ascoltarli tutti. Visto? Sei anche quindi, in tema. Vedi, assolutamente. Con la lancia tema? No, vabbè, esageriamo. Esatto, anche meno, dai, anche meno. E quindi Andrea ha preparato un meraviglioso bussolotto. Bussolotto, bello, me lo devo segnare. È un meraviglioso bussolotto con dentro, ok, tutti i numeri, ok, non i numeri di telefono né degli IBAN, questo è purtroppo disdicevole, ma con i numeri ha associato ogni numero un album che compie 40 anni e io gioco alla pesca. Assolutamente. Come si faceva al Festival dell'Unità o dell'Umidità, come lo chiamava mio nonno, che peraltro stasera con la nebbia che c'è andrebbe benissimo, ok, al Festival dell'Unità quando si pescavano i numeri e potevi vincere anche una macchina. Esatto, questa oggi invece si vince la gloria. La gloria, che è una tua amica? No, assolutamente no. Sì. Ok, va bene. Franco la gloria. Franco la gloria, sì, esattamente. Vabbè, va bene. Classe 1974 con una lancia tema. Per molto bene. Se volete impedirci di continuare a delirare, potete scriverci al 333-1809-494, SMS, WhatsApp e Telegram e noi ci taceremo e taciteremo, ma intanto il primo numero. Tu hai pescato il primo numero che corrisponde al numero 6, giusto? Abbiamo avuto delle discussioni fuori onda se fosse un 6 o un 9. Esatto, ma poi abbiamo appurato che fosse un 6 e quindi il 6 corrisponde a... Il 6 corrisponde agli In Excess. Allora, attenzione, va molto bene. Con l'album che poi diremo dopo, successivamente, sì. Ma... ha un singolone, signor singolone, perché ha in sé Original Sin. Attenzione, patapam. Know of the original sin, and you might know how to play with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd have been dead. Dream on, white boy. Dream on, black girl, and wake up to a brand new day, to find your dreams are washed away. There was a time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy. And wake up to a brand new day, to find the dreams are washed away. original sin. You might know how to play with fire, but did you know I'm a murder committed in the name of love? Con Original Sin da The Swing, esattamente, 1984, perché la ripeteremo spesso questa parola, esatto, questa sera, non perché siamo completamente rintronati, ma perché, come dicevamo, la puntata è dedicata agli album che fanno 40 anni. Invecchiato benino, dai, tutto sommato. C'è questo finale un po' con questi cornetti, synth cornetti, che sì, sembrano le merendine, sì, di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077. Attenzione, ma, vedi che io ti sparo così proprio delle chicchine pregevoli, pregevoli. Gioco a cui ho potuto soltanto assistere in terza persona, nel senso che okay, c'era Non mi hai ancora detto, non abbiamo ancora detto al pubblico se andiamo a vedere Keanu Reeves a Bologna, quindi a me sembrava scontato. Molto, dai, a prezzo intero. Tu solo che tu credi, chiedi accrediti, capito, perché fai il giornalista, hai capito? Fai parte della casta. Ho presunto tale della casta. Esatto. Sì, sì, sì. Così, non ho del cast. Nel senso che mi hanno incastonato in un muro e lì. E lì come, tipo Han Solo. Come Han Solo della graffite, esatto, è bello così. Che Han Solo, tra l'altro, in quella scena è del 1984. Non è del 1984, assolutamente. però c'è ancora tanta bella musica. C'è un elenco di album veramente inquietante usciti nel 1984. Invece dicevamo fuori onda, il 1985 è un po', insomma, è il contraccolpo, no? È il contraccolpo. Come quando dai tutto, esatto, è il giorno libero, l'anno libero. È così, non, se sono presa comoda. E dire che, insomma, c'era gente che era in grado di scartucciare, cioè Elvis era in grado di scartucciare 3 album in un anno. Sì, quindi, tra l'altro. Quindi, lo so, però non è così. No. Bene, andiamo col prossimo numero? Ma sì, vai col prossimo numero. Facciamo pescare una mano innocente. Assolutamente. Ok, attenzione. Quando ho detto mano innocente, ha ritratto la mano, quindi. E allora il prossimo brano è il Ci vuole un interprete. Vediamo. Potrebbe un po'. Essere il 18. Potrebbe essere un 18. Fammelo vedere dall'altra parte della vetrata. Sì, un 18. Io mi rendo sempre più conto che ho. No, in realtà non è peggiorata la mia calligrafia, è sempre stata una cacografia. Perché dal greco, attenzione, non sono cose così. Non sono cose. Il 18, sai, non sono mi sento cose molto di Gianni Morandi. Esatto. Esatto. Hai detto allora. Allora, il 18, guarda un po', il 18 intanto io lo accetto di base, okay, perché l'importante è portare a casa un altro, sì, esame. Sì, perché come stavamo dicendo fuori onda, io per all'università, per un esame che credevo fosse facilissimo, informatica, cioè ci sguazzavo, ok, causa Excel, Microsoft Excel, ho preso 23. Maledizione. Il primo esame. Dopo sveleremo il perché parlavamo di Excel fuori onda. Sì, esatto. Cioè, sempre una buona ragione. Non... C'è ma sempre una buona ragione. Ma intanto, in questo caso, una ragione buona. Ma... Allora, comunque. Album numero 18. Album numero 18. È bello perché Andrea mi ha fornito un elenco di dischi con adeguatamente numerati, ma i numeri non corrispondono al suo elenco. Assolutamente quindi, no. Cioè, però mi ha perculato, capite? Questo numero 18 è collegato in un certo senso a una band che comunque passiamo discretamente spesso, cioè i Van Halen. Non sono i Van Halen, ma è una persona che entrerà nei Van Halen l'anno successivo. Ah, quindi attenzio, stiamo allora parlando di Sammy Hagar, esatto. Che tra l'altro nel 1984 esce Van Halen 1984 con Jump Panama e tutto il resto, cioè un album allucinante. Sì. E lui ciccia fuori l'album solista con la canzone, non so se due volte o tre volte addirittura, disco di platino. Ma attenzione, I Can't Drive 55, che questa qui la potevamo mettere magari un paio di puntate fa. In effetti sì, è possibile. E quindi insomma, che è direttamente 1984 per l'appunto, album Voa. C'è un Voa nella canoa. C'è un Voa nella canoa, esatto. Quindi niente, così. Io direi che ce la possiamo andare a sentire. Tra l'altro, ultima nota a margine, sì, il piccolo assoletto di chitarra che si sente in questa canzone l'hai fatto tu? No, è direttamente il buon Sammy. Attenzione, perché lui non solo è cantante, ma mi è anche un più che discreto chitarrista. Attenzione. We'll be right back. scusate, eravamo impegnati a fare a Duken, esatto, esattamente perché ho squattato mostrando ad Andrea le mie bellissime spilline 8 bit di Ryu e Ken che si lanciano gli Hadouken da un lato all'altro del mio zaino. Ecco, sì, ho avuto questa reminiscenza adolescenziale per cui posso dire tanta roba. A 4 dadi 10 più 10 anni di età mi sono comprato lo zaino dell'Eastpak che volevo quando ero giovane e non mi potevo permettere. Non è questo il benessere, questa la borghesia. Cioè, comprarsi l'Eastpak, esatto, per metterci le spilline di Street Fighter. Quindi, cioè, qui, di conseguenza, il benessere e la borghesia sono le spillette di Street Fighter. Esatto. Allora, comprate da un sottosito cinese che vende i miei dati e la mia anima al miglior offerente su Alibaba. Quindi è giusto così. È giusto così. Quindi, Sammy Hagar, che sarebbe Voice of America, okay, che è attualmente, perché ancora esiste, un'emittente radiofonica americana. Era proprio, attenzione, ma non era un sottefugi così, era proprio un riferimento ben specifico. Hai visto quanto è preparato, attenzione, il nostro Andrea? E da lì a qualche mese poi sarebbe andato nei Van Halen, il buon Roth poi ha detto, sapete che c'è? Che si era Roth. Mi sa Roth. Esatto. E quindi è così. Quindi intanto cominciamo, abbiamo già due numeri da giocarci sulla ruota. Vedete, della 6 e 18. 6 e 18, esatto. Quindi adesso però sono le 21 e 23, quindi sembra che questo orologio, attenzione, sia incredibile. Sì, sì, assolutamente. Questi due orologi sono sincronizzati. Hai capito? Quest'altro però no. Ah, quindi ecco, okay, rientra tutto, okay, nella Fanta 80 Time Machine. Ok, okay, va tutto bene, siamo ritornati alla normalità. Allora peschiamo un altro numero. Okay. Assolutamente. Nel frattempo che peschi, io dico, sì, che nell'84 sono usciti nel frattempo il primo album di Bon Jovi, il secondo album degli Europe, quindi già c'era il sedimento di un po' di tutti quei tastieroni che io più o meno odio. Capelloni e tastieroni. Capelloni e tastieroni, proprio un bijou del bijou. Cioè potrebbe essere un sottoprodotto di Panta 80, il podcast Capelloni e tastieroni. Attenzione. Facciamolo. Così, un altro prodotto editoriale che insomma a fondo alla Decita Fujiko si trasmette contenuti praticamente dalle 6 del mattino all'una e mezza. Però quindi ci può stare. Sì, sì. Proponiamo. Va bene, se no facciamo un takeover su qualche trasmissione distratta. Non possiamo durare, anche perché lo stiamo dicendo in diretta, mentre il direttore, sempre sia lodato, ci ascolta. Quindi avevi preso? Avevo preso? Già io sono un po' inquieto. Okay, perché? Perché io credo molto nella numerologia. Ok. Per cui ho pescato il 6, lei ha pescato il 18, che è 3 volte 6. Ok. Io ho pescato il 12, quindi che è 2 volte 6, che quindi stiamo sono tabellina. Esatto, stiamo facendo la tabellina del 6, ok, mm-hmm, ma nel frattempo è 6 6 6 6 6 6 e quindi sino che 6 6 6 è possibile, quindi, è una sinopoli. Peraltro insomma c'è stato un altro gruppo molto legato al 666, sì, che è uscito con un album nell'84, Power Slave, Iron Maiden, sì, 1984, ma tra l'altro anche un altro gruppo con il mio album loro preferito, i Metallica con Ride the Lightning. No, il mio preferito non è Master of Puppets ma è Ride the Lightning. Ma per me è il Black più grezzo e feroce. Per me è il Black Album, perché io in fondo, ma come sei mainstream, sono un bocconotto praticamente. Sono morbido dentro, quindi ora ho fame e ho nostalgia dell'Abruzzo, pittoresco e selvaggio. Capisco, quindi cos'è l'album numero 12? È Stay Hungry dei Twister Sister. Ok, signori, hai miei messo una R di troppo, che non sono i Twister, cioè non sono le sorelle che giocano a Twister. Vabbè. Esatto, che vuoi che sia. Twister Sister, come dicono quelli che hanno un po' di difficoltà. Esatto, Pittsburgh. E praticamente quello lì è il disco dove c'è uno dei loro capisaldi, I Wanna Rock. E ho detto, facciamo per una volta i banali, perché comunque in effetti I banali, mamma mia, ok, ragazzi, andiamo. È molto lunedì, eh? molto lunedì. Rock! posso... Ci sono le papere, attenzione. Le papere! No, vabbè, quello che era quando, paperissima. Quando fanno qua... Allora, qua si raggiungono livelli proprio di Everest al contrario, sì, quindi sì, Fossa delle Marianne, esatto. Esattamente. Posso dire una cosa per I Wanna Rock? Puoi dirla. Mi viene in mente sempre il film di SpongeBob, perché alla fine c'è I'm a Goofy Goober Rock. C'è un problema. Tu hai visto il film di SpongeBob? Ripetutamente, nel 2006, primo anno di università per me, io ogni cavolo di sera prima di andare a dormire me lo sparavo direttamente. Ma vedi che ci sono tante spiegazioni, però cioè, tra l'altro, tante cose si spiegano per SpongeBob, cioè hanno chiamato proprio i Twisted Sisters Bobo Spugna Braga Quadri, tra l'altro, io ogni volta mi emoziono. Cuoricino. Va bene così. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Credo di dare dobbiamo la pubblicità. Lanciare la pubblicità, però annunciamo prima che la mano del destino. La mano del destino, è vero. Ok, the Red Hand of Doom, anche, ma questa è la citazione per i giocatori, solo per i giocatori di ruolo. Ha pescato poi il 19. Il 19, che poi andremo a scoprire che cos'è. Esatto. Che cos'è. Che posso testimoniare se il 19, perché il pezzo di carta ha lo stesso taglio del 18. Cioè, nel senso che si vede che erano... Sì. Erano vicini. Vabbè. Caccarini. Basta, sta diventando una succursale di Paperissimi e tutto ciò è molto disdicevole. Andiamo con la pubblicità, direi. Pubblicità. Oh no! Mi sono entrati i ladri in casa! È già la seconda volta! Pensavo che la mia porta blindata fosse sicura. Mi hanno portato via tutto. Ma, signor Rossi, qui ci vuole un professionista serio. Chiami la BM Security di Bertozzi Marco. In tempi rapidissimi le sostituiranno le serrature e aggiorneranno il livello di sicurezza. Così avrà una casa più sicura. BM Security di Bertozzi Marco. Fabbri di famiglia a prezzi onesti. 346-708-2065. Grazie, signora Laura. Lo chiamo subito. 346-708-2065. Vuoi imparare a usare la voce come uno speaker radiofonico? Intendo molto meglio della voce che stai sentendo? Allora iscriviti a Voice on Air, il corso di speakeraggio radiofonico di Radio Città Fujiko, in collaborazione con Rima Cheride e Teatro dei Dispersi. Imparerai le principali tecniche di respirazione, vocalità e lettura e potrai realizzare un prodotto radiofonico. Chiedi informazioni o iscriviti scrivendo a marketing@radiocittafujiko.it o telefonando allo 051 3464 458. Hai un romanzo nel cassetto che non riesce ad uscire? Hai solo il cassetto e non sai come aprirlo? Dall'11 febbraio torna il laboratorio pratico di scrittura a cura di Massimo Vitali. 5 incontri per chiunque abbia voglia di mettere per iscritto la propria fantasia. Ogni domenica negli studi di Radio Città Fujiko in via Zanardi 369. Informazioni e iscrizioni a scrivimi@massimovitali.org o chiama 338-994-8047. Cacao Mental, l'elettrocumbia psichedelica più pazza del mondo, arriva al mercato Sonato il 2 febbraio. Siete pronti per una dose di adrenalina? Apertura porte ore 22. Info sui social e su www.senzaspine.org. Inizia ora la seconda parte di Panta 80. Vedi che mi piace tutto questo. Apriamo un sondaggio. Allora al 333-1809-494 rispondete, vi prego, a questo questo sondaggio che tra poco il buon Panda dirà. Esatto, ho trovato in offerta su eBay, ok, un cabinato, ok, un arcade street di Street Fighter 2 Champions Editions. Che è quello che mi ha devastato le quello monete. Con cui ti ho devastato, che è diverso. Smettila. Però va bene. Tra l'altro, cioè, tu devi dirvi vai avanti. Ha un costo assolutamente accessibile. Mm-hmm. Ok, perché costa 350 euro, quindi costa oggettivamente molto poco. Non è uno di quei multigame, cioè Champions Edition e Turbo. Esatto, c'è anche il Turbo. C'è anche il Turbo. Volendo, c'è anche il Turbo, perché lo sai che puoi selezionare. Sì, sì, sì, sì. Okay. Io mi sono allenato con quello. Esatto, molto bene. Forse allora è il caso che ne usi un altro. E quindi vorremmo chiedere al popolo della rete, no? Come siamo da democrazia diretta noi, esatto, qui, no? se devo comprarlo oppure no. Votate, quindi, votate al 333-1809-494. No. Tu non hai votato al 333-1809-494. È un esempio di risposta. È un esempio di risposta, esatto, che può essere ignorato, esatto, così come può essere giusta oppure sbagliata. Ok. Che poi tutto questo è nato letteralmente 20 secondi prima di rientrare, esatto, poi è partito il mini jingle con Pac-Man. Esatto, vedi, quindi tutto si congiunge, tutto torna. Quindi numero 19, tutto torna, perché la signora Ciccone fondamentalmente è ritornata qualche MDMA mese fa, praticamente, non... Attenzione con le parole, con le sigle. Cioè MDNA è Sì, avevo capito, quindi MA, vabbè, sì, NA, sì. Compro una vocale, comunque, esattamente, madonna, esattamente. Quindi stiamo parlando la indovini con tre, che sono le tre parole, like a virgin. Sole, cuore, amore. Sole, cuore, amore, no, like a virgin. E comunque c'è una prima risposta qui, al sondaggio, no. Però non vale. Comunque, saranno conteggiate solo le risposte positive. Assolutamente quindi. Sì. Comunque andiamo con Like a Virgin, Madonna 1984. E senti che bello. l'altro volevo dirti Andrea, che ho visto. Volevi dirmi? Sì, ho visto la scorsa settimana, ok, mentre insomma da brava partita IVA guarivo molto rapidamente dal COVID, ok, perché non sapevo, è il miglior antibiotico di sempre, sempre. Non può sbagliare. Ho guardato finalmente dei video che sono stati mandati da un comune amico, salutiamo, ciao Michele. Ciao. Ok, che è stato finalmente, lui è uno dei madonnari più madonnari convinti che io conosca, ok, secondo solo a Green okay. Everywhere, quindi salutiamo anche Joe e ciao. Albe. E, praticamente è finalmente andato a vedere Madonna dal vivo e quindi mi ha bombardato di video e devo dire che sono esterrefatto. Cioè? È perché c'ha l'età di mia madre, ok? E però, porca boia, che spettacolo mette ancora insieme. Cioè, è veramente... È una di quelle cose che ho pensato, porca miseria, sarei dovuto andarla a vedere. Perché ciò che discerne il professionismo da quello che ci vuole provare. No, vabbè, cioè lì cioè. Non è professionismo, cioè lì siamo... Guarda, lo dico, da un punto di vista di spettacolo siamo a livello di semidivinità probabilmente, proprio una cosa veramente clamorosa. Stare. Quindi, insomma, se vi capita andatevi a recuperare qualche video, perché devo dire che una scenografia e una coreografia così non le avevo mai viste. Devo dire che sono proprio bomba, veramente bombissima. Bomba bomba boomerang. Tantissima roba, come c'è ancora tantissima roba in questo bicchiere, sono le 21:41. Ok, quindi direi di... Vado alla pesca, sto 84 mi sta devastando. Esatto, e mi gioco il 4. Il 14. Ne stavamo parlando ed è praticamente uno degli appuntamenti fissi qui a Pantottanta per quanto riguarda le playlist. Attenzione, allora li conosciamo ben bene. Vai. Sono delle regine. Una regina. Una regina. Sai che ti dico? Dai, ma io non li annuncio nemmeno. No, falli partire e basta. Yeah. 21.45 agli orologi della Panta 80 Time Machine, anzi 21.46, questa è sempre Panta 80, Radio Città Fujiko 103.1 in FM, radiocittafujiko.it. E questi erano i Queen con Radio Gaga da The Works. Hai visto? Gran disco, dove peraltro ci sono alcune delle mie canzoni preferite, fra cui una anche poco nota. Ah sì? È vero? C'è Hammer to Fall. È vero. Here We Stand o Here We Fall. Quella Story Won't Carry It All. Quella è veramente figa. Gran pezzo. Un attacco di chitarra veramente notevole di un Brian May in grande forma. Cioè, nell'84 continua a ripeterlo. Io non so che cavolo avessero preso, sì, ma proprio le persone, i musicisti. Non so. È uscito il mondo. Cioè, erano riusciti persino i Deep Purple nell'84 a riformarsi con la seconda formazione, quindi con Blackmore, quella classica, diciamo così. E hanno tirato giù Perfect Strangers. Così, dischino da niente. Che per essere un disco del ritorno di una band in cui almeno due membri si scornavano proprio. Vabbè, che dobbiamo fare? Che tra l'altro è uscito anche in ritardo perché i legali di Gillian Blackmore non si riuscivano a mettere d'accordo. E poi invece hanno tirato giù una cosa devastante. Cioè, devastante. È un gran bell'album. Comunque. Cioè, è così. Forse non sarà il miglior album dei Deep Purple, forse non sarà il miglior album del 1984, ma secondo me se lo paragoniamo con quello che esce oggi siamo a livello iperuranico. Ma poi tra l'altro, okay, appunto, avete ascoltato il rantolo del vecchio rancoroso. Non ho quella 2024 edition. Ok, Champions Edition. Champions Edition, okay. Quindi Round X Fight. Direi che possiamo ripescare un pochettino. Facciamo ripescare una mano innocente, dai. Vediamo. La mano innocente sta scartabellando lì sul bussolotto. Una mano innocente. Innocenti, proprio. La Y10. E ha pescato il numero preferito dei francesi. Ovvero sia? Trebian. Esatto. Trebian da Bruce. Lo bicchiere. Ok. Oddio. Può per favore ri... Oddio, così? Allora, metto le mani avanti. Sì. È un gruppo che odio. Ah, allora io so cosa hai È un gruppo che odio, ma devo dire... Sì? Che quest'album qua, per quanto io personalmente lo ritenga irritante... ha dei bei colpetti. Molto bene, molto bene. Quindi li annuncio io gli U2? No, non sono gli U2. Sono dei tipi mascherati che negli anni 80 per 4-5 anni hanno detto: sapete che c'è? Facciamo respirare sta pelle. Vabbè. Che dopo il cerone ci occlude il cervello. Bello. E infatti hanno fatto Animalizer, che è un più che discreto album. Molto bene. Quindi sto parlando dei Kiss nella loro versione più tamarra, cioè proprio hanno raggiunto livelli. Sì. Assolutamente sì. Heavens on Fire, che questa l'apprezzo. I Kiss, ladies and gentlemen. You know the way to Ah, è finito? Sì, non no, dai. Puoi smettere di trattenere il fiato. È carina perché tamarra, diciamo così, dai. La, lo dice anche mia moglie, passare. È carino perché è tamarro, quindi sono un uomo fortunato. Sono un ragazzo fortunato. Perché mi hanno regalato un sogno? Era così? Sì. O sì. Ci ho aggiunto cose? No. Cioè sì, abbiamo preso cose evidentemente. No. Tra l'altro, parentesi, giusto per farmi rivitalizzare un attimo dopo i Kiss, nell'84 per quanto riguarda l'Italia c'era anche il debutto dei Diaframma con Siberia. Però. Il... mi pare fosse il primo album proprio, non EP, ma proprio album dei Vanadium col buon Pino Scotto. E nell'84 si stavano preparando il Litfiba per uscire poi l'anno successivo, sì, quando è desaparecido. Sì. 84 c'era Transea. Sì. Così. Così. Cose a caso. Ed Eneide di Krypton nell'84. Così. Ah, ecco. Andate a ricicciare. Ti stavo aspettando qua. Al varco. Cioè, sì. L'unico vinile che ho sempre voluto possedere Litfiba, che non sono mai riuscito ad avere. Perché lo fecero in pochissime cose. Lo ritirarono dal mercato perché non era. Hanno avuto scazzi, mi sembra, con la casa discografica. Sì, no, si trova ancora in giro, ma a prezzi abbastanza. Improponibili. A papaiaia. Vabbè, sono le 21:54, signori e signori. Fuori ci sono i ragazzi di Balla e Difendi, per cui niente, è il momento dei saluti della settimana. Per cui salutiamo Fabi, che è qui a fianco a noi, che ha mimato tutta la sera e si è presa la responsabilità di pescare anche alcune delle canzoni. Tanto il Jolly lei l'ha già pescato. Scusate, come me la pettino proprio. E vabbè, ma va così, ragazzi. È un lunedì abbastanza impegnativo. E salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko, sperando che rimangano tali nonostante noi il lunedì sera, che è sempre una dimostrazione di grande resilienza. No? Esatto. Salutiamo la nebbia che ci aspetta fuori, così almeno ha giustificato l'insensato limite di velocità che siamo costretti a tenere. Avete ascoltato il rantolo del vecchio rancoroso parte 2. Comunque lasciamoci. Oggi avevo anche il cappello. Pure tu allora, cioè, scusami, ti sei calato nella parte. Esatto. E allora sai che ti dico, non ti faccio scegliere, ti volevo fare anche il trick, scegli tra la 1, la 2 e la 3. Niente, faccio rasserenare con, perché nell'84 è uscito anche, sai che cosa? Sì. Born in the USA. Non ci riascoltiamo Hai scelto? Io detesto, perché non riesco a leggere con queste lenti a contatto, Darlington County. Gran pezzo. Così. Ottima scelta. Direi ci risentiamo lunedì prossimo, se non ci buttano fuori dalla radio. Ciao!